Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci, siamo pronti dal Groovemaster Studio, come sempre, per dare il via al soundcheck di Radio 24, il suono della musica. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo e buonasera ai miei compagni di avventure radiofoniche e musicali, ormai in clausura qui nel Groovemaster Studio, e non andranno via, non usciranno da questo studio anche quando la produzione sarà terminata, perché finiremo il primo weekend di luglio. Resterete qui fino a quando non mi avrete garantito che tutta la discografia e tutti i libri sui quali avete fatto le vostre fotocopie e che avete utilizzato torneranno al loro posto. Quindi vado a presentarvi l'esperta di comunicazioni multimediali Silvia Barba in tutto il suo splendore. Buonasera a tutti. E il nostro archivista della discografia del Groovemaster Studio, Francesco Tromba. Ciao a tutti, io ho intenzione di mettere tutto in un sacco della spazzatura e portarmelo via. Ecco, io lo lascio a casa mia. A fare così? rubo. Purtroppo non è possibile, Tromba, perché continueremo a fare questo lavoro. Ah, sì. E quindi abbiamo bisogno di mantenere tutta la discografia e i libri al loro posto per ritrovarli con facilità, per garantire ai posteri ancora tanta musica. Ma infatti io li porto via per archiviarli sul mio computer. L'ha dovuto dire, no? Fa il padrone a casa tua, com'è possibile? Non è possibile, infatti non è possibile. Bene, ma non vogliamo perdere tempo, perché oggi la puntata mi sembra abbastanza interessante, non solo per i giovani artisti, musicisti, cantanti e così via, ma per tutti coloro che in qualche modo stanno pensando di utilizzare i nuovi social media come trampolino di lancio per la loro attività. Perché parliamo di questo? Perché più volte abbiamo detto che per i nuovi artisti, quelli che non hanno un contratto discografico importante con una multinazionale o anche con un'etichetta indipendente accreditata, diventa difficile promuovere la propria musica utilizzando i canali tradizionali, e quindi si devono rifare a internet cercando di capire come muoversi sui social media. E quindi quali sono i social media più importanti? Silvia, li vogliamo elencare? Da Facebook a Twitter, a Instagram, se vuoi anche, non lo so, no, questi sono i più importanti. Questi sono i più importanti. Poi mia figlia mi ha parlato di Snapchat, però mi ha anche spiegato che non funziona tanto bene. Non funziona, vabbè, quello è anche un po' un divertimento, però per gli artisti o per comunque chi fa musica, poi ci sono quelli indipendenti che noi nominiamo sempre, che sono SoundCloud e Bandcamp, dove si può mettere la propria musica e farla ascoltare. E quelle sono delle piattaforme importanti per la musica. Ma oggi vogliamo parlare di social media, approfittando della presenza qui al Groovemaster Studio di uno che proprio lavora su queste cose qui, hai capito? Cioè, tu lo chiami e ti metti a posto tutti i tuoi social media, li sincronizza e fa in modo che tu abbia tante visualizzazioni e magari anche a monetizzare queste visualizzazioni. Questo signore ha un nome e si chiama Giacinto Brienza. Benvenuto Brienza, benvenuto. Buonasera a tutti, intanto grazie dell'invito. Prego. Quindi parleremo dei social media, che sono molto importanti, come dicevate poco fa. Voglio dirvi una cosa. Vedi, è partito subito a palla, non gli ho neanche fatto una domanda. Va bene. Per farvi capire l'importanza dei social media, secondo me non stare sui social è un po' come voler correre, che ne so, il Grand Prix con la panda. Impossibile. È una bella cosa. Allora ne parliamo fra pochissimo, perché al tempo stesso la puntata l'abbiamo impostata sui social media, ma anche da un punto di vista sonoro. Caro Tromba, di che cosa parliamo? Ovvero, che cosa ascolteremo oggi? È tutta musica italiana, alcune cose un po' più indie, alcune cose un po' più sì, pop. Non iniziate a scrivere, non scrivete "stai diventando come gli altri", perché non è così. Abbiamo fatto una selezione per raccontarvi che cosa succede nel sottobosco della musica leggera, pop. Sì, potremmo dire pop, perché alla fine è pop, comune, il pop. Però il pop che noi vi suoniamo oggi è diverso da quello che vi suonano gli altri, o no? No, alcune cose sono anche in comune con altri play, sono abbastanza presenti in radio, altre un po' meno. Altre un po' meno, però cercheremo di capire perché le abbiamo selezionate. Sì, alcuni sono arrivati in radio quasi, cioè come in maniera improvvisa, quasi improbabile. Ma allora io ti faccio una domanda, Tromba, perché vorrei dare il via alla musica. Perché al soundcheck di Radio 24 io dovrei mettere in onda un signore che si chiama Calcutta e che ha scritto una canzone intitolata Oroscopo? Allora, prima di tutto perché questa canzone in radio funziona, secondo me, benissimo. Funziona benissimo, anche al soundcheck di Radio 24. Basta che sei in macchina e ti ritrovi sintonizzato su una stazione che trasmette Oroscopo. Secondo me funziona. Non cambi. Va bene, allora Brienza, per favore, iniziamo a fare un conteggio delle visualizzazioni di tutti i nostri social media durante la proposta in Airplay di Oroscopo del signor Calcutta. Bene, il dottor Tromba si assume le sue responsabilità perché l'Airplay lo ha fatto lui. No, non è così. Lui ha selezionato tutta una serie di artisti del panorama italico, ovvero quelli che secondo lui sono i musicisti, i cantanti, gli artisti, gli autori di riferimento che possono in qualche modo rappresentare il momento, giusto? Sì, in realtà alcuni non piacciono neanche a me, non piacciono tutti gli artisti. Ma scusa, ma se non ti piacciono, perché li devo mettere in onda io? Ma perché comunque sono rappresentativi della musica italiana in questo momento. Quindi in questo periodo storico. Quindi noi stiamo facendo un'indagine giornalistica oggi. Va bene. Allora, perdonateci, oggi non ascolterete il sound tipico del soundcheck, ma l'italiano di oggi. Sì, soprattutto ecco. Un annuncio agli amici del gruppo d'ascolto di tuo padre di cambiare assolutamente canale. Stazione, va. No, ma l'hanno già fatto, guarda. Comunque a me non dispiace questo Calcutta, lo voglio male, dire che Calcutta è anche uno degli artisti preferiti da mia figlia che ha 12 anni e conosce tutte le sue canzoni. Brienza, Giacinto Brienza, eccomi. Esperto di social media, ovvero qual è il tuo titolo? Social media manager dovresti. Ma è un parolone, io mi definisco più un social media karma perché spiego. E qua viene fuori il Gabbani, cioè tu sì. Fuori il Gabbani che è in te. Sì, che sì, significa sì. Social media karma? Perché quando karma col K proprio. Sì, col K perché fa più figo, perché quando spiego le cose alle persone, le spiego 100 volte perché è difficile spiegare questi concetti in maniera facile e quindi ho bisogno del karma, altrimenti veramente sbrocco. E quindi social media karma manager mi sa un po' troppo. Ho capito, perché anche con me facevi questa cosa. Io sì, pensavo invece, te lo volevo dire. Io perché pensavo che tu invece fossi estremamente noioso. Ho detto, ma questo perché me le ripete 100 volte? Pensa che io sia un deficiente. A me basta che me le dici mezza volta le cose, le capisco e dobbiamo andare avanti. Benissimo. Invece al telefono mi ripeteva sempre un loop, Tromba. Ho detto, questo è pazzo, perché invece lo fai come metodo. Sì, uso questo metodo perché, diciamo, sono concetti abbastanza complessi. Io cerco di spiegarli in maniera facile, perché ci sono alcuni paroloni che uno dice, ma che cosa stai dicendo? Quindi cerco di fare questo, insomma. Va bene, allora spiegheremo fra pochissimo la tua attività e daremo dei consigli ai giovani artisti, che magari sono anche quelli che passiamo oggi, anche se mi dice il Tromba che, per esempio, un artista come Coez... Sì. Che ha un nome che è già tutto un programma. Sì, in realtà il suo nome di battesimo è Silvano Albanese. Silvano Albanese, che è un bel nome. Però insomma. E Silvano i genitori Albanese non gli hanno detto funziona. Nulla quando ha scelto Coez come nome? No, non credo perché. Coez. Lo chiamavano così a scuola, no? No, lui viene dalla scuola di writer. In realtà, precedentemente era un writer per strada. Ha iniziato con l'hip hop e poi si è lanciato su sonorità molto più pop. Allora, il Coez ha scritto un brano e io l'ho scelto. Tu mi hai fatto delle proposte e ho scelto questo brano perché secondo me. E va a toccare proprio delle corde importanti su una generazione di italiani, quelli che fanno le medie ma anche i primi anni del liceo, come mia figlia, no? Sì, e infatti Coez è proprio una creatura del web, potremmo dire, perché prima del web lui non era, cioè ad esempio non ha tanti passaggi in radio, solo in alcune radio non di punta, però la nostra invece? Sì. La nostra è una scelta giornalistica. Sì, sì. Allora, infatti i suoi video funzionano benissimo su YouTube, se mettete su YouTube dal punto di vista visuale. Ma ne parliamo con Brienza fra pochissimo. Coez con Faccio un casino, attenzione perché qui... è un casino. Soundcheck, il suono della musica. Da Cosenza con furore il suono di Bruno Risas, che sta andando fortissimo, fa pienoni ai concerti, è tra l'altro un artista intelligente, scrive dei testi bellissimi come per esempio quello proposto da Canzone contro la paura qui al Soundcheck di Radio 24 in una puntata dal suono molto diverso dalle altre. Abbiamo scelto un repertorio tutto italiano proprio per capire dove sta andando la musica del nostro paese, perlomeno il pop. Poi c'è tutto il versante jazz, world music, ma quello sapete che lo trattiamo costantemente per monitorare tutto quello che succede da noi, ma anche all'estero. Nostro ospite è Giacinto Brienza, esperto di social media, lo ha già detto, non si definisce un social media manager, ma un social media karma, perché le cose alle persone che lo chiamano le deve ripetere 100 volte. Invece qui le devi ripetere una volta sola, le devi dire una volta sola. Mi fa piacere. Quindi la prima cosa che io vorrei chiederti, perché è importante... intanto, ecco, la differenza che c'è fra chi utilizza Facebook per diletto e chi invece ne deve fare un uso professionale. Allora, innanzitutto, avere una pagina di Facebook è una cosa seria, quindi tutti coloro che vogliono far conoscere il proprio talento, vogliono far conoscere il proprio business, la propria azienda al resto del mondo e non alla sua cricca di amici, devono aprire una pagina Facebook. Quindi Facebook. Apri una pagina Facebook e hai già vinto. Ma scusami, una volta Facebook era un po' una sorta di condominio, si raccontavano barzellette, stupidaggini, si postavano le fotografie dei matrimoni e dei viaggi alle Maldive. E i professionisti utilizzavano il web, cioè la homepage www.giacintobrienza.com. Quello funziona ancora? Allora, il sito, come dici tu, istituzionale serve sempre, però il social è più, immediato. Se tu hai un pensiero, vuoi comunicare qualcosa, lo fai in maniera in real time, quindi ha una potenza, tra virgolette, devastante il social. Ecco, perché per lavorare invece su una homepage tradizionale bisogna essere proprio esperti o avere un webmaster a disposizione. Sì, bisogna chiamare il webmaster, spiegargli l'idea, insomma è una cosa abbastanza lunga. Quindi da tenere aggiornato è più complesso. Invece Facebook è velocissimo. Facebook, soprattutto la fanpage di Facebook, è molto importante per svariati motivi. Ecco, attenzione, siamo passati già alla fanpage, quindi parliamo prima dell'utilizzo, diciamo, quello standard, ecco. Allora, voglio spiegarvi questa cosa. In pratica, il fare business con il tuo profilo è illegale. Lo voglio dire questa cosa. Se Facebook si... Fare business con il tuo profilo è illegale. Spieghiamo bene, scusami. Sì, allora, succede questo. Se tu vuoi pubblicizzare un tuo evento... Antonello Caprotti, uno qualsiasi. Sì, vuole pubblicizzare il suo bar sotto casa, sul suo profilo, e se ne accorge Facebook, innanzitutto che cosa fa? Ti chiude da un momento all'altro il tuo account e quindi tutte le tue pagine, i tuoi contatti vanno persi. E quindi credo che non ne valga la pena. Quindi Antonello Caprotti, proprietario di un bar, deve aprire la pagina del bar, Bar Caprotti. Fanpage del bar. Secondo me è una regola molto importante, ma anche per gli artisti, per tutti quanti che fanno questo mestiere, perché è una cosa seria avere una pagina Facebook. È una cosa seria una pagina. Silvia? È la maniera seria che mi mette un po' in difficoltà, perché qual è la maniera seria per seguirti? Lo diciamo fra pochissimo, perché adesso c'è un altro signore, una signorina. Una signorina. È una signorina tromba o si è fidanzata? No, è sposata addirittura. Hai sposata? Sono contento. Purtroppo. Sono contento. Ci puoi presentare la signora Levante? Sì, è Levante, tra l'altro su Instagram è attivissima, ha un profilo molto seguito e molto ben fatto, devo dire, lo sa utilizzare molto bene. Infatti, ho visto che la copertina del disco è anche interessante. Se l'è buttata sul letto e il marito non se l'è presa? No, perché è un artista pure lui, quindi comprende, immagino. Faccio delle domande, no? Sì, sono curioso. Levante, tra l'altro, è stata anche accusata di saper usare meglio Instagram rispetto a saper cantare. Secondo me non è vero, perché funziona molto anche lei. Magari sì, non è ma bello è anche tutto molto il seguita, disco. È molto amata Levante. Molto seguita. I suoi concerti sono sempre molto... cioè quasi sold out sempre. Il brano si intitola Pezzo di me, nel senso tu sei un pezzo di me, però nella canzone potrebbe continuare, potrebbe avere un altro significato. Soundcheck, il suono della musica. Sì, e questa è una delle mie preferite, una musicista completa, bravissima, diplomata al conservatorio, eccellente pianista, ha anche diretto l'orchestra a Sanremo, forse è stata, credo, nella storia del Festival di Sanremo, il direttore d'orchestra più giovane in assoluto. È Carolina Bubico, quindi dalla siciliana Levante ci siamo spostati un po' più a nord, perché Carolina Bubico è pugliese, esattamente di Lecce, è veramente un'artista eccezionale. Brano intitolato Cos'è che c'è, qui ci siamo spostati un po' su un versante quasi black italico, perché Carolina si è formata ascoltando jazz, per quanto sia un'artista onnivora musicalmente, e quindi la sua musica risente di tutto quel background. Papà, eccellente chitarrista, docente al conservatorio, che ha studiato al Berklee College of Music, quindi quello che si ascoltava a casa si risente poi anche nella musica di Carolina Bubico, che è diventata anche producer, oltre a essere una brava arrangiatrice, quindi lavora per altri artisti. E fra pochissimo ascolteremo anche questa nuova cantautrice che si chiama Cristiana Verardo, prodotta proprio da Carolina Bubico. Il nostro Giacinto Brienza, nostro ospite, esperto di social media, quindi abbiamo fatto già la distinzione sull'utilizzo di Facebook, c'è la fanpage che viene utilizzata dai professionisti che devono promuovere qualcosa, perché pare che promuovere la propria attività invece sulla pagina tradizionale non può essere fatto, perché Facebook poi ci va a chiudere il tutto, giusto? Sì, sì, dico bene. Dico bene io o dici bene tu? Dicevo bene prima io. Ok, hai detto bene, bene, perfetto. Senti Giacinto, allora dimmi un po' come funziona il tuo lavoro, cioè... Allora, io che cosa faccio? Tu che fai? Ti proponi o ti chiamano? Che allora, cosa fai esattamente? Io in pratica curo innanzitutto i social di aziende, però mi piace più curare i social degli artisti perché è più stimolante, però non disdegno niente, insomma. Beh, questo perché tu da grande volevi fare l'artista, un po' lo sei, sì, no? Sì, sono... diciamo che ho provato a suonare il pianoforte, però non ho avuto questi grandi successi. No, perché il Brienza ha studiato pianoforte al conservatorio, eh? Sì, diciamo fino al quinto anno, poi ho abbandonato. Hai capito? Quindi potrebbe suonare il pianoforte, insomma, poi si è stufato, ha capito che invece... No, ho capito che non era il mio mestiere e quindi mi sono inventato questa attività che mi piace molto, anche perché è molto dinamica, è molto smart, come si suol dire. È molto smart, Trombari, scrivilo, eh? Eh sì, l'avevo già scritto, l'avevo già detto prima. Ah sì, allora è molto smart. Allora come funziona? Diciamo che il Tromba è un giovane artista e ti contatta. Allora, innanzitutto lo farei gratis per il Tromba, perché è un grande artista. Grazie. È un grande artista il Tromba, quello te lo chiede subito, eh. Io sono venuto per lui, Gigi, non per te, volevo dirlo in diretta. Vabbè, allora... No, scherzo. Ma che cosa combinano questi due? Tu lo sai che io li mando via tutti e due subito. Facciamo la seconda parte del programma io e te. Ci sto. Ci stai. No, scusami Giacinta, sto scherzando, ma neanche tanto. Sì, ho capito. Ok, allora. Niente, quindi il mio lavoro consiste in maniera professionale nel gestire i social network, perché è un lavoro, cioè gestire una pagina di un artista richiede anche un'ora al giorno, quindi ho diversi artisti e anche aziende a cui curo i social network, che sono Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, Twitter, ce ne sono a milioni di social network, e ogni social network ha una strategia, quindi per ogni social network bisogna adottare una strategia ben precisa di comunicazione. Questo è qua. Ho capito. Per Facebook qual è il criterio di base? Cioè io artista come devo utilizzare la mia fanpage? Deve essere un lavoro costante, quotidiano? Non c'è il rischio poi di esagerare e andare anche un po' a infastidire gli altri utenti? Questo è vero, sì, è una giusta osservazione. Bisogna Grazie. Usarli con parsimonia, nel senso che bisogna postare, diciamo, non ogni mezz'ora, quindi bisogna farsi un calendario, magari a inizio settimana, e capire magari che cosa postare durante la settimana. Io faccio così con i miei clienti, diciamo, questo è quello che faccio, diciamo. Pianifico cosa postare. Una pianificazione intelligente sulle cose da promuovere. Sì, altrimenti diventa Spam è tutto ciò che dà fastidio a un utente, a un... Ecco chi è Tromba. No, sono spam. Sì, un po' spam Tromba. No, va bene. Allora, ok, fermiamoci qui perché fra pochissimo parte l'informazione di Radio 24, però ci vorrei andare con la musica, quindi non so, Silvia, tu conosci la Cristiana Verardo, Tromba? No, no, te ne parlo io, perché lei è una cantautrice molto giovane, chitarrista, diplomata in canto jazz al Conservatorio Rota di Monopoli, quindi pugliese anche lei, e il suo disco d'esordio si chiama La mia voce. Eccola qui, Cristiana Verardo, al soundcheck di Radio 24, con La ballata del cantautore, arrangiamenti di Carolina Bubbico, anche la produzione, e quindi noi ci risentiamo subito dopo l'informazione, sempre qui, su Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Eccoci pronti per la seconda parte del soundcheck di Radio 24 dopo l'informazione, puntata anomala, molto diversa dalle altre. Uno, perché parliamo di social media. Vabbè, come questo ne abbiamo già parlato, però oggi lo facciamo in maniera quasi scientifica con un esperto, ovvero Giacinto Brienza, nostro ospite, che si definisce addirittura un social media karma, perché le cose le deve ripetere 100 volte a chi richiede la sua attività, ovvero aziende e giovani artisti che vogliono promuovere il loro lavoro utilizzando i social media. Abbiamo già parlato di Facebook, analizzeremo anche altre metodologie. Al tempo stesso stiamo ascoltando musica italiana, selezionata dal nostro Francesco Tromba, che mi ha fatto delle proposte. Io poi ci ho messo del mio e fra le proposte ho selezionato una serie di artisti della nuova generazione, ma fra un po' anche di quella vecchia, di cose che a me sono particolarmente piaciute, tanto per dare ogni tanto un po' di supporto anche da parte nostra alla produzione italiana. Ma ci sono delle cose molto divertenti anche. Sì, molto divertenti e soprattutto di qualità. E soprattutto di qualità. Bene, ne parliamo fra pochissimo, ma vorrei tornare a Giacinto Brienza e ai social media, quanto sono importanti. Bene, abbiamo capito la differenza. Facebook, un artista deve avere la sua fanpage sulla quale può promuovere la sua attività con un lavoro costante e programmato, giusto? Sì, sì. Deve essere ben programmato, non bisogna improvvisarsi a fare questo lavoro, e quindi bisogna programmarla al meglio. E poi, parlando di altri social network, un social network che a me piace molto è YouTube, per esempio, di cui parlavamo prima, perché il mezzo video è molto importante nei social network. Tu considera che nel 2015 è stato dichiarato l'anno del video marketing, tant'è che su Facebook, Instagram, sui social girano solo video da qualche tempo a questa parte. Ho notato anche che anche le grandi aziende non chiedono più il curriculum, ma un video. Sì, un video di presentazione. Questa cosa sembra strana, perché il video fa leva sulle emozioni. Tu vedendo un video ti riesci ad emozionare, magari anziché leggere un papiro, un post magari di 100 caratteri, tu con un video di 30 secondi arrivi subito al punto. Quindi il video arriva subito, è un mezzo molto potente. Lo so, perché anche il Tromba si lascia molto condizionare dall'immagine. Io noto che, per esempio, mi propone a volte, parlo di artiste. Sì, soprattutto artiste. Artiste, ecco, molto formose, ma da un punto di vista artistico poi negative. Ma non sempre, però. Non alcune sempre. Volte coincidono. Coincidono. E là la cosa è bella, eh? Quando molto bella. Col video deve essere così, cioè deve esserci la forma, ma anche la sostanza, Brienza, no? Sì, soprattutto la sostanza. Tant'è che YouTube che cosa ha fatto ultimamente? Prima le views su YouTube venivano calcolate con ogni click. Adesso YouTube, per dare più attenzione ai video, una views parte dopo circa 30 secondi. Quindi ha voluto premiare la qualità anziché i click, come dicevamo, mentre Facebook non fa così. Ecco, ma sono allite Facebook e YouTube, vero? Sì, diciamo che si sono dichiarati guerra da un po' periodo a questa parte, perché Facebook ha capito che il futuro ormai è il video, e quindi se tu cerchi di postare un video da YouTube sulla tua fanpage... Quindi inserire il link del video di YouTube sulla tua fanpage, che succede? Che cosa fa? Te lo rimpicciolisce. Quindi, vabbè, ci sono anche dei trucchi per... Quindi la qualità Facebook la riduce apposta. Sì, perché tu dici: a casa mia non te li faccio postare i video, anzi se li posti si vedono anche male. Quindi su Facebook vanno postati soltanto video personali, non presi da YouTube? No, li prendi da YouTube, però attraverso dei trucchetti, dei tools. Vabbè, no, ci sono i trucchetti, dei trucchetti non ne vorrei parlare. Sì, sì, sì. Quindi... O tu ne vuoi parlare, Brienza? No, sarebbe molto noioso. Sarebbe noioso, però ci sono dei trucchetti che permettono quindi di... Che cosa? Sì, di bypassare questa cosa di Facebook. E quindi la miniatura si vede molto più grande, quindi bypassi... Vedrai che adesso Facebook, già a partire da domani... non dà più neanche questa possibilità. Sì, ma si diceva anche questa cosa qui, che arriverà a questo punto, però sarebbe un po' come una cosa di censura, non sarebbe bello. Insomma. Va bene, ma diventiamo forse troppo tecnici e noiosi. Invece vorrei andare a qualcosa di molto interessante. Molto più gioviale. È molto più gioviale, ovvero parlarvi di un artista... secondo me interessante. Ecco, allora io credo che gli amici che ascolteranno il brano penseranno che io sia diventato pazzo, però ho anche i miei buoni motivi, perché credo che Giovanni Truppi, napoletano, sia un vero artista. Sì, è un grandissimo artista dal mio punto di vista. Un grandissimo artista. Adesso Tromba, sì, veramente, Tromba definisce le persone che gli piacciono personaggi, personaggioni e idoli. Giovanni Truppi è tutti e tre. Allora, Giovanni Truppi, perché abbiamo scelto Giovanni Truppi napoletano? Perché ha scritto una canzone con un testo secondo me geniale, ovvero il brano si intitola Superman, e Giovanni Truppi in questa canzone preferisce andare a letto e avere un'esperienza sessuale con Superman che con la sua donna, perché Superman lo fa volare, invece la sua donna È pesante. Ha una mente ingombrante. Io credo che sia un messaggio contemporaneo molto avanti. Sì, poi Giovanni Truppi è il classico personaggio che lo vedi e magari non lo consideri particolarmente un fenomeno. Invece poi quando suona, quando canta, è veramente bravissimo, c'ha una voce impressionante. Allora, ascoltiamo Superman. Fate attenzione al testo, è molto intelligente, molto divertente. Giovanni Truppi al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Bene, una scorpacciata di novità italiane qui al Soundcheck di Radio 24 per tutta la puntata, brani proposti dal nostro Francesco Tromba, che io però ho ascoltato con attenzione e ho selezionato, perché tu mi hai mandato veramente qualsiasi cosa, Francesco. Ho lavorato molto per mettere sull'airplay di oggi. Sì, perché in realtà alcune cose magari non vanno incontro ai miei gusti, però potrebbero piacere. Ma io non potevo altri. Saperlo, che tu mi mandi, mi segnali anche delle cose che non ti piacciono. Lo fai per mettermi alla prova o cosa? No, perché a volte comunque le tue scelte mi sorprendono, quindi cerco di lanciare più frecce. Bravo, infatti non ti devi mai abituare alle mie sorprese, non ti abituare mai. Allora, il brano che avete ascoltato era Roma stasera. Certamente che il signor Motta non parla benissimo della sua città, o comunque parla di come la vive lui. Sì, in realtà lui è pisano, però appunto si è trasferito a Roma, vive a Roma da tanti anni, vive al Pigneto, appunto come in realtà anch'io la vedo un po' così ogni tanto. Roma certe volte ti sfianca, ti uccide. Ecco, Motta artisticamente come lo possiamo catalogare? Lui viene dal rock, quindi comunque c'ha un'esperienza punk rock molto importante. Faceva parte di un gruppo che si chiamavano The Criminal Jokers. Poi questo è il suo primo disco da solista, che si intitola La fine dei vent'anni. Molto bello, e io l'ho visto anche live, molto potente il live. Questo Tromba va dappertutto, vede tutto, Lui li segue questi artisti perché ne ha incuriosito in fondo. Invece io ho notato, Silvia, che tu segui gli artisti, quelli che ti interessano, attraverso Twitter. Tu Twitter lo utilizzi molto. E invece in Italia gli artisti un po' lo snobbano. O comunque, visto che c'è Giacinto Brienza, non so se sei interessata a sapere qualcosa di più. Sono molto interessata alla strategia di Twitter, perché credo che ce ne sia una specifica che forse noi ancora non conosciamo bene, quindi era questa proprio la mia domanda, su qual è la strategia di Twitter e chi lo può usare e chi è meglio che lo usi, piuttosto che evitare magari di non avere poi un seguito importante. Sì, Twitter diciamo che è un social network molto intelligente, molto interessante, è uno dei social network più mi affascina, perché devi scrivere delle cose interessanti e devi essere molto ermetico, non puoi scrivere cavolate. Sì, perché puoi scrivere quanti caratteri? 140? Sì, in 140 caratteri devi essere più intelligente possibile, quindi è un social network per pochi, diciamo, tant'è che lo utilizzano i leader. Per esempio Trump comunica solo su Twitter, ormai lui giornalisti li odia. E pare che abbia fatto tutta la sua campagna utilizzando Twitter. Tutti i leader politici e chi ha da dire qualcosa, insomma, ha bisogno di utilizzare Twitter e non Facebook. Quindi, come dicevo, ricollegandomi a prima, ogni social ha una strategia. Ecco, quindi... Ma lasciando perdere sì. i leader, no? Parliamo di noi, no? Parliamo degli artisti, dei giovani artisti, perché è a loro che dedichiamo la puntata. Sì. Quindi per loro Twitter è importante come Facebook o Instagram, e come lo devono utilizzare? Guarda, Twitter è per pochi, bisogna capire da artista ad artista, perché se hai da dire qualcosa lo utilizzi, se non hai da dire niente è meglio che stai zitto, perché sennò ci fai brutta figura su Twitter. Io lo utilizzo abbastanza e anche noi come Soundcheck lo utilizziamo molto, e abbiamo capito anche in che modo, perché anche per gli artisti americani è carino ricevere la scaletta e sapere che in Italia c'è un programma che suona la loro musica, le loro composizioni, tant'è vero che abbiamo un feedback notevole, forse più dall'estero che dall'Italia. Vabbè, tu sei un leader però anche, ma quindi sì. È giusto che tu lo dici. Sei istituzionale, sono ambasciatore, questo sì, questo lo possiamo dire, che sono ambasciatore. Va bene, stiamo scherzando, ma neanche tanto, come sempre. Giacinto Brienza, quindi Twitter lo abbiamo anche analizzato. Diciamo, sì. Fra poco parleremo anche di Instagram, che piace tanto ai giovanissimi. Sì, ai giovani. Io ancora non ho capito bene come utilizzarlo Instagram. Capiremo tra un po'. Tra un po'. Allora, da Motta passiamo invece forse al rapper di riferimento delle ultime generazioni italiane, o no? Sì, assolutamente personaggio punta del rap italiano, tra l'altro è stato... Personaggio, personaggione o idolo? Personaggio. Personaggio, quindi. è l'unico italiano che ha avuto airplay a Beats One, la radio di Apple Music. E quindi di chi parliamo? Fabri Fibra. Con? Insieme ai The Giornalisti. The Giornalisti. Con Pamplona, questo... Pamplona. Can you hear me? Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Soundcheck, il suono della musica. La cosa bella è che noi abbiamo intervistato Davide Shorty Shortino 2-3 anni fa, prima della sua partecipazione a X Factor, quando, residente a Londra dove studiava musica, faceva parte di un organico di reggae R&B contemporaneo, e sapendo che questo ragazzo palermitano si trovava lì, noi ci siamo collegati, anche perché scrisse una tesi molto interessante proprio sul fenomeno del backbeat, ovvero il nuovo andazzo, il nuovo groove tipicamente black americano. Davide Shorty Shortino qui al Soundcheck di Radio 24 dal recente album, il brano intitolato Fenomeno, con la partecipazione invece di quello che potremmo già considerare un veterano di grande talento come Daniele Silvestri. Sì, e credo che Shorty faccia ancora parte del gruppo che si chiama Retrospective for Love, il progetto internazionale, potremmo dire, di Shorty. Bene, io lo trovo un artista formidabile, completo e anche un bravissimo ragazzo, lo salutiamo, anzi se Davide ci stai ascoltando faccio una telefonata e vieni a trovarci quando ti pare. Giacinto Brienza è il nostro ospite, esperto di social media, stiamo analizzando un po' quelli più importanti, abbiamo iniziato con Facebook, siamo passati da YouTube, poi siamo arrivati a Twitter che pare sia un po' in calo, no? Sì, è in perdita. È in perdita. Quindi lo venderanno. Ma speriamo di salvarlo, perché a me piace tantissimo. Poi altro social che abbiamo lasciato alla fine, dicevamo, era Instagram. Ecco, Instagram. Perché Instagram piace tanto ai giovanissimi? Allora, Instagram era partito come un social per fotografie, per postare fotografie. Quindi poi hanno implementato la strategia video, perché come dicevamo prima il video... è diventato molto importante, e quindi Instagram che cosa fa Instagram? Tu posti delle foto, dei video, li metti degli hashtag e queste foto arrivano a tutto il mondo, insomma è fantastico, puoi condividere le tue foto con il resto del mondo. Ecco perché a me non funziona, perché io posto le fotografie ma non metto gli hashtag. Neanche i titoli forse? Neanche i titoli, no, ma io metto le foto come se fosse proprio là. Ecco, adesso ecco, ne capisco, ecco. Silvia, prendi nota che andiamo a verificare. Poi ogni anno si stila una sorta di classifica degli hashtag per argomento, che quindi ti consiglio di andare a vedere e quindi di postare quegli hashtag che potresti, cioè, quelli che funzionano perché per esempio in questo momento che funziona on air On Air funziona. On Air ci avrà un sacco di seguaci. Ma scusami, tromba, Silvia, noi non abbiamo l'Instagram del Soundcheck con tutte le foto degli artisti, dello studio. Perché il disordine che avete messo voi nel mio, nella stanza dei dischi. Facebook e Twitter. Brienza, questo è un errore grave, allora, non avere Instagram del Soundcheck. Perché abbiamo Twitter, abbiamo la pagina Facebook, manca Instagram. Sì, mi meraviglio del professor Tromba che non ha provveduto a Instagram. Però si può provvedere, insomma, è una cosa che si può fare. Si può fare, dobbiamo fare e naturalmente mettere gli hashtag importanti. Ovvero... vabbè, poi hashtag tromba, ecco. Soundcheck anche. Soundcheck. Allora, scusatemi, mi sono allontanato perché mi è caduto qualcosa. Da Davide Shorty passiamo a un'altra veterana, è stata a New York tanti anni, poi è stata in Brasile, adesso è tornata in Italia, non abbiamo ancora capito dove vuole andare a vivere, ma si chiama Chiara Civello. Il brano è Somebody Love, molto divertente, molto estivo, molto fresco, molto personaggio, personaggione o idolo? Idolo. Soundcheck, il suono della musica. E questo è un brano tratto dal nuovo album di Mario Venuti che si chiama Motore di vita, un brano bellissimo che parla del mare. Lui è un siciliano vecchia scuola, quindi la scuola di Battiato, di Carmen Consoli, ha collaborato con tantissimi artisti, molto elegante, sempre molto raffinato, quindi noi quest'oggi abbiamo voluto presentarvi questo suo nuovo lavoro. Tutto questo mare di Mario Venuti, che io saluto con affetto, noi ci siamo conosciuti, lo devo dire, 30 anni fa, quando lui faceva parte di questa band chiamata De Novo, che noi, quando eravamo in onda su Rai 2 con Doc, naturalmente invitammo, così, cosa che facevamo quando ci piaceva una band e il sound di alcuni artisti, anche della nuova generazione. Ed è quello che abbiamo fatto oggi, abbiamo suonato cose diverse del panorama musicale italico, proprio della nuova generazione, addirittura artisti che segue mia figlia, che però scrivono delle cose molto intelligenti, quindi magari il suono non è proprio quello abituale del nostro soundcheck, ma io mi sono molto divertito ad ascoltare le canzoni di questi ragazzi, ai quali auguro grandissimi successi e di riuscire a vivere serenamente con la musica anche nel nostro paese. Poi ci sono artisti già accreditati come Chiara Civello, come Mario Venuti, oppure come una grandissima cantante con la quale voglio chiudere questa puntata del nostro soundcheck, ma ve la presento soltanto dopo aver ringraziato per la partecipazione Giacinto Brienza. Grazie e complimenti per il tuo lavoro, Giacinto. Grazie a voi dell'invito, è stato un piacere. Anche per me è stato un piacere. Poi mi darai dei consigli su come far funzionare al meglio i social media che Tromba e Silvia Barba non riescono a tenere a bada. No, lo fanno, anzi io ringrazio loro perché soltanto per merito loro riesco a essere presente con Soundcheck nella rete. Però mi dicevi anche un'altra cosa: sì, è importante avere Facebook, Twitter, la web page, Instagram. La cosa importante per un artista, per un giovane artista, è che tutto questo sia sincronizzato. Sì, questo deve avere un brand identity, parolone. Brand, scrivi Tromba, brand identity. Quindi molto importante è l'immagine coordinata su tutti i social network, quindi con un logo iconico, facilmente riconoscibile, non roba pacchiana, quindi deve arrivare il messaggio, i tuoi valori e quello che fai, quindi deve essere tutto sincronizzato come un orologio svizzero. Come un orologio svizzero, e noi siamo degli orologi svizzeri, anzi devo dire una cosa, che forse siamo un po' in ritardo, e anche perché è puntualissima, invece deve essere puntualissima l'informazione di Radio 24, quindi direi di presentare una delle migliori cantanti del mondo, è una mia amica italiana. Può cantare tutto quello che vuole, dal jazz contemporaneo alla musica classica. Noi l'abbiamo anche incontrata quando andavamo in onda con Variazioni su tema, quindi è uscito il nuovo disco di una grandissima artista italiana, si chiama Maria Pia De Vito, che interpreta in lingua napoletana alcuni classici di Chico Buarque. Fammi dire che sono contenta di chiudere in bellezza e che tra l'altro lei, secondo me, fa parte di un altro campionato, è la più grande di tutte. Grazie a Silvia Barba, a Francesco Tromba, Giacinto Brienza, un saluto da Gegge Telesforo. Tromba, ti vedo che stai lì per dire qualcosa. Sì, io volevo ricordare i nostri social, di seguirci, ecco, sia su Twitter, vedi, che su Facebook, e se volete anche di farci sapere quali di questi artisti italiani vi è piaciuto di più. Ecco, bene, noi li salutiamo tutti, salutiamo Maria Pia De Vito, complimenti per Core Corazzao, il brano lo ha rivisitato in napoletano, è un successo, un classico di Chico Buarque e Gio Landa, e lo ha intitolato Facimma Ambresse, Facimma Ambresse, che qua ci chiudono il programma, avanti, arrivederci a tutti.